L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Venticinquesima puntata. Fine di Rodomonte. Lettura poetica di Giancarlo Sbragia. Narratore Gianni Bonagura. Occorre affrettarsi a sciogliere tutti i nodi. Orlando è rinsavito, Carlo ha vinto la guerra, non resta che celebrare le nozze di Bradamante e Ruggero. Già lui si è convertito al cristianesimo, già Rinaldo gli ha promesso la mano della sorella. Quali altre complicazioni possono ormai succedere? Ne succedono, invece, e di così vaste da aprire quasi lo spazio di un nuovo poema nel poema che sta per chiudersi. Il duca Amone, che non sapeva niente di Ruggero, ha promesso la mano di sua figlia a Leone, figlio niente meno che dell'imperatore di Grecia Costantino. Può il duca Amone mancare di parola? Ruggero riesce solo a far rimandare d'un anno ogni decisione e parte per i Balcani, con l'idea di spodestare Costantino e Leone dal trono d'Oriente. A quel tempo i greci erano in guerra contro i bulgari. Ruggero, in incognito, combatte dalla parte dei bulgari, sconfigge i greci e dà tali prove di valore che gli offrono la corona di Bulgaria. Il principe Leone, al vedere in battaglia questo nemico così straordinario, viene preso da un'ammirazione per l'eroe sconosciuto che sconfina nell'adorazione. L'imperatore Costantino invece riesce a farlo catturare a tradimento e lo imprigiona e tortura come quel pericoloso nemico che egli è. Ma il figlio Leone, ammiratore fanatico dell'eroe sconosciuto, lo libera di nascosto e ne guadagna la perpetua riconoscenza. È destino di Ruggero d'essere amato dai nemici e di cacciarsi in situazioni in cui non capisce più da che parte deve stare. Rieccolo in un dilemma tragico. Il debito di gratitudine per il rivale gli strazia la coscienza. Bradamante, intanto, per sfuggire alla strettoia, convince Carlo Magno a indire un torneo. La guerriera concederà la sua mano solo al cavaliere che riuscirà a resisterle dall'alba al tramonto. Ella è sicura che le sarà facile buttar giù di sella Leone, così che Ruggero vinca e se la sposi. La poverina non sa che Ruggero ha stretto un patto di fedeltà con Leone e che Leone, anziché presentarsi al torneo di persona, si farà sostituire dal cavaliere sconosciuto, travestito con l'armatura e le insegne del principe di Grecia. Dunque Ruggero deve, per lealtà verso Leone, combattere contro la donna amata e tenerle testa di modo che essa finisca per sposarsi col rivale. Difatti Leone viene creduto vincitore, ma Marfisa, che non comprende come mai il fratello non si fa vivo, riesce a imporre ancora una prova. Siccome Ruggero aveva chiesto la mano di Bradamante in precedenza, si attenda il ritorno di Ruggero perché Leone si batta con lui. Leone accetta, pensando di far combattere in sua vece il cavaliere sconosciuto. Qui il conflitto interiore di Ruggero deve pur trovare una soluzione. Non potrà certo scendere in torneo contro se stesso. Ma siamo tra personaggi così generosi che appena i drammi nascosti cominciano a fiammeggiare allo scoperto, ci sarà certamente un'esplosione di magnanimità generale. Leone rinuncerà a Bradamante e Ruggero, eletto re di Bulgaria, sarà scoperto come vincitore legittimo della mano di Bradamante. Vado avanti a raccontare così di corsa perché in mezzo a vicende tanto seriose m'è presa una gran nostalgia d'un personaggio che incarnava una dignità comica più forte di tutte le dignità tragiche. Il poema sta per finire. Che Ariosto se ne sia dimenticato? No. Ecco che alla fine della festa di nozze, dopo 9 giorni di banchetti, saltando fuori dalle spelonche dell'anfrattuoso poema, un cavaliere tutto bardato in nero si presenta davanti a Carlo Magno. È lui, Rodomonte, il più spavaldo, il più smodato, il più suscettibile, il più sfortunato, il più patetico di tutti i cavalieri del poema. Per scontare le umiliazioni che avevano ferito il suo orgoglio, Rodomonte è rimasto nascosto per 1 anno e 1 mese e 1 giorno e ora viene a sfidare Ruggero, a cercar di impedire che il poema si compia. Ancora una volta le lance volano via in una girandola di schegge. Ancora una volta le prove di forza straordinarie degli eroi sono paragonate alle quotidiane fatiche degli uomini. I giganteschi lavori per arginare il Po o i crolli nelle miniere d'oro d'Ungheria e di Spagna. Rodomonte, che racchiuse in sé lo spirito sfaccettato del poema, la sua sonora baldanza, la sua melanconia, la sua inesausta riserva di energie, s'accomiata, avvitandosi in una lenta spirale verso il buio acheronte del silenzio. L'ultimo dì, nell'ora che il solenne convito era gran festa incominciato, che Carlo a man sinistra Ruger tenne e Bradamante avea dal destro lato, diverso la campagna in fretta venne contra le mense un cavaliero armato, tutto coperto egli e il destrier di nero, di gran persona e di sembiante altiero. Quest'era il re d'Alger, che per lo scorno che gli fe sopra il ponte la donzella, giurato avea di non porsi arme intorno, né stringer spada, né montare in sella, finché non fosse un anno, un mese e un giorno stato come eremita entro una cella. Così a quel tempo solean per se stessi punirsi i cavalier di tali eccessi. Sebben di Carlo in questo mezzo intese e del re suo signore ogni successo, per non disdirsi non più l'arme prese, che se non pertenesse il fatto ad esso. Ma poiché tutto l'anno e tutto il mese vede finito e tutto il giorno appresso, con nuove arme e cavallo e spada e lancia, alla corte or ne vien quivi di Francia. Senza smontar, senza chinar la testa, e senza segno alcun di riverenzia, mostra a Carlo sprezzar con la sua gesta e dei tanti signor l'alta presenzia. Maraviglioso e attonito ognun resta che si pigli costui tanta licenzia. Lasciano i cibi e lascian le parole per ascoltar ciò che il guerrier dir vuole. Poi che fu a Carlo e da Ruggero a fronte, con alta voce ed orgoglioso grido, «Son, disse il re di Sarza, Rodomonte, che te, Ruggero, alla battaglia sfido. E qui ti vo, prima che il sol tramonte, provar che al tuo signor sei stato infido, e che non merti, che sei traditore, fra questi cavalieri alcuno onore. Benché tua fellonia si vegga aperta, perché essendo cristian non puoi negarla, pur per farla apparere anco più certa, in questo campo vengoti a provarla. E se persona è qui che faccia offerta di combatter per te, voglio accettarla. Se non basta una, e quattro e sei in accetto, e a tutte manterrò quel ch'io t'ho detto. Ruggero a quel parlar ritto le vosse, e con licenzia rispose di Carlo, che mentiva egli, e qualunqualtro fosse che traditor volesse nominarlo, che sempre col suo re così portosse che giustamente alcun non può biasmarlo, e che era apparecchiato sostenere che verso lui fe sempre il suo dovere, e che a difender la sua causa era atto senza torre in aiuto suo veruno, e che sperava dimostrargli in fatto ch'assai n'avrebbe forse troppo d'uno. Quivi Rinaldo, quivi Orlando Tratto, quivi il Marchese, e il figlio Bianco, e il Bruno, Dudon, Marfisa, contro il pagan fiero s'eran per la difesa di Ruggero, mostrando che, essendo egli nuovo sposo, non dovea conturbar le proprie nozze. Rugger rispose lor, state in riposo, che per me foran queste scuse sozze. L'arme che tolse al tartaro famoso vennero, e fur tutte le lunghe mozze. Gli sproni il conte Orlando a Ruggier strinse, e Carlo al fianco la spada gli cinse. Bradamante e Marfisa la corazza posta gli aveano, e tutto l'altro arnese. Tenne Astolfo il destrier di buona razza, tenne la staffa il figlio del danese. Feron d'intorno far subito piazza Rinaldo, Namo ed Olivier Marchese, cacciaro in fretta ognun dello steccato, a tal bisogni sempre apparecchiato. Donne e donzelle, con pallida faccia, timide a guisa di columbe stanno, che da granosi paschi ai nidi caccia rabbia de venti, che fremendo vanno con tuoni e lampi, e il nero aer minaccia, grandine e pioggia, e ai campi strage e danno. Timide stanno per Ruggier, che male a quel fiero pagan lor parea uguale. Così a tutta la plebe e alla più parte dei cavalieri e dei baron parea, che di memoria ancor lor non si parte quel ch'in Parigi il pagan fatto avea, che solo a ferro e a fuoco una gran parte n'avea distrutta e ancor vi rimanea e rimarrà per molti giorni il segno, né maggior danno altronde ebbe quel regno. Tremava più che a tutti gli altri il core a Bradamante, non ch'ella credesse che il Saracin di forza e del valore che vien dal cor più di Roger potesse, né che ragion che spesso dà l'onore a chi l'asseco Rodomonte avesse. Pur stare ella non può, senza sospetto, che di temere amando a degno effetto. Oh, quanto volentier sopra sé tolta l'impresa avria di quella pugna incerta, ancorché rimaner di vita sciolta per quella fosse stata più che certa. Avria eletto a morir più d'una volta, se può più d'una morte esser sofferta, piuttosto che patir che il suo consorte si ponesse a pericol della morte. Ma non sa ritrovar priego che vaglia perché Ruggero a lei l'impresa lassi. A riguardare adunque la battaglia, con mesto viso e cor trepido stassi. Quinci Ruggero, quindi il pagan si scaglia, e vengonsi a trovar coi ferri bassi. Le lance all'incontrar parver di gelo, i tronchi augelli a salir verso il cielo. La lancia del pagan che venne a correre lo scudo a mezzo fe debole effetto, tanto l'acciar che pel famoso e torre temprato avea Vulcano era perfetto. Ruggero la lancia parimente a porre gli andò allo scudo e gliele passò netto, tutto che fosse appresso un palmo grosso, dentro e di fuor d'acciaro e in mezzo d'osso. E se non che la lancia non sostenne il grave scontro e mancò al primo assalto e rotta in schegge e in tronchi aver le penne parve per l'aria, tanto volò in alto. Lo sbergo apria, si furiosa venne, se fosse stato adamantino smalto e finì la battaglia, ma si roppe. Posero in terra ambi destrier le groppe. Con briglia e sproni i cavalieri instando risalir feron subito i destrieri e donde gittar l'aste, preso il brando, si tornaro a ferir crudeli e fieri. Di qua, di là, con maestria girando, gli animosi cavalli atti e leggeri, con le pungenti spade incominciaro a tentar dove il ferro era più raro. Non si trovò lo scoglio del serpente che fu sì duro al petto Rodomonte, né di Nembrotte la spada tagliente, né il solito elmo ebbe quel dì alla fronte, che l'usate arme, quando fu perdente contro la donna di Dordona al ponte, lasciato avea sospese ai sacri marmi, come di sopra avervi detto parmi. Egli avea un'altra assai buona armatura, non come era la prima già perfetta, ma né questa, né quella, né più dura a balisarda si sarebbe retta, a cui non osta incanto né fattura, né finezza d'acciar, né tempra eletta. Ruggero di qua, di là, si ben lavora ch'al pagan l'arme in più d'un loco fora. Quando si vide in tante parti rosse il pagan l'arme e non poter schivare che la più parte di quelle percosse non gli andasse la carne a ritrovare, a maggior rabbia, a più furor si mosse che a mezzo il verno e il tempestoso mare, getta lo scudo, e a tutto suo potere sull'elmo di Ruggero a due man fere. Con quella estrema forza che percuote la macchina che imposta su due navi, e levata con uomini e con ruote cader si lascia sulle aguzze travi, fere il pagan Ruggero quanto più puote, con ambe man, sopra ogni peso gravi, giova l'elmo incantato, che senza esso lui col cavallo avria in un colpo fesso. Ruggero andò due volte a capochino, e per cadere e braccia e gambe aperse. Raddoppia il fiero colpo il Saracino, che quel non abbia tempo a riaverse, poi vien col terzo ancor, ma il brando fino si lungo martellar più non sofferse, che volò in pezzi e dal crudel pagano disarmata lasciò di sé la mano. Rodomonte per questo non s'arresta, ma s'avventa Ruggero che nulla sente. In tal modo intronata avea la testa, in tal modo offuscata avea la mente. Ma ben dal sonno il Saracin lo desta, gli cinge il collo col braccio possente, e con tal nodo e tanta forza afferra che dell'arcion lo svelle e caccia in terra. Non fu in terra sì tosto che risorse, via più che d'ira di vergogna pieno, perocché a Bradamante gli occhi torse e Turbar vide il bel viso sereno. Ella, al cader di lui, rimase in forse e fu la vita sua per venir meno. Ruggero, ad emendar presto quell'onta, stringe la spada e col pagan s'affronta. Quel gli urta il destrier contra, ma Ruggero lo cansa cortamente e si ritira, e nel passare al fren piglia il destriero con la man manca e intorno lo raggira, e con la destra intanto al cavaliero ferire il fianco, il ventre o il petto mira, e di due punte fe sentirgli angoscia, l'una nel fianco e l'altra nella coscia. Rodomonte, che in mano ancor tenea il pome e l'elsa della spada rotta, Ruggier sull'elmo in guisa percotea che lo potea stordire all'altra botta. Ma Ruggier, che a ragion vincer dovea, gli prese il braccio e tira tanto a lotta, aggiungendo alla destra l'altra mano, che fuor di sella al fin trasse il pagano. Sua forza o sua destrezza vuol che cada il pagan, sì che Ruggier resti al paro. Vuol dir che cadde in pie, che per la spada Ruggero averne il meglio giudicaro. Ruggier cerca il pagan tenere a bada lungi da sé, né di accostarsi a caro. Per lui non fa lasciar venirsi addosso un corpo così grande e così grosso. E insanguinargli pur tuttavia il fianco vede e la coscia e l'altre sue ferite. Spera che venga a poco manco, sì che al fin gli abbia dar vinta la lite. L'elsa e il pome avea in mano il pagan anco, e con tutte le forze insieme unite da sé scagliolli, e sì Ruggier percosse che stordito ne fu più che mai fosse. Nella guancia dell'elmo e nella spalla fu Ruggier colto, e sì quel colpo sente che tutto ne vacilla e ne traballa, e ritto si sostien difficilmente. Il pagan vuole entrar, ma il piè gli falla, che per la coscia offesa era impotente, e il volersi affrettar più del potere con un ginocchio in terra il fa cadere. Ruggier non perde il tempo, e di grande urto lo percuote nel petto e nella faccia, e sopra di martella, e tien sì curto che con la mano in terra anco lo caccia. Ma tanto fa il pagan che gli è risurto, si stringe con Ruggier sì che l'abbraccia, l'uno e l'altro s'aggira, e scote, e preme, arte aggiungendo alle sue forze estreme. Di forza a Rodomonte una gran parte, la coscia e il fianco aperto aveano tolto. Ruggero avea distrezza, avea grande arte, era alla lotta esercitato molto, sente il vantaggio suo né se ne parte. E donde il sangue uscir vede più sciolto, e dove più ferito il pagan vede, puom braccia e petto, e l'uno e l'altro piede. Rodomonte, pien d'ire di dispetto, Ruggier nel collo e nelle spalle prende. Or lo tira, or lo spinge, or sopra il petto sollevato da terra lo sospende. Quinci e quindi lo ruota e lo tien stretto, e per farlo cader molto contende. Ruggier sta in sé raccolto, e mette in opra senno e valor per rimaner di sopra. Tanto le prese andò mutando il franco e buon Ruggier, che Rodomonte cinse. Calcogli il petto sul sinistro fianco e con tutta sua forza ivi lo strinse. La gamba destra un tempo innanzi al manco ginocchio e all'altro attraversogli e spinse e dalla terra in alto sollevollo e con la testa in giù steso tornollo. Del capo e delle schene Rodomonte la terra impresse e tal fu la percossa che dalle piaghe sue come da fonte lungi andò il sangue a far la terra rossa. Ruggier ca la fortuna per la fronte, perché levarsi il saracin non possa, l'una man col pugnal gli ha sopra gli occhi, l'altra alla gola, al ventre gli ha i ginocchi. Come talvolta, ove si cava l'oro là tra pannoni, o nelle mine ibere, se improvvisa ruina su coloro che vi condusse empi avarizia fere, né restano sì oppressi che può il loro spirito appena onde uscire adito avere. Così fu il saracin, non meno oppresso dal vincitor, tosto che in terra messo. Alla vista dell'elmo gli appresenta la punta del pugnal che avea già tratto, e che si renda, minacciando, tenta e di lasciarlo vivo gli fa patto. Ma quel che di morir manco paventa che di mostrar viltade a un minimo atto, si torce e scuote, e per por lui di sotto mette ogni suo vigor, né gli fa motto. Come mastin sotto il feroce alano che fissi i denti nella gola gli abbia, molto s'affanna e si dibatte in vano con occhi ardenti e con spumose labbia, e non può uscire al predator di mano che vince di vigor, non già di rabbia, così falla al pagano ogni pensiero d'uscir di sotto al vincitor Ruggero. Pur si torce e dibatte, sì, che viene ad espedirsi col braccio migliore e con la destra man che il pugnal tiene, che trasse anch'egli in quel contrasto fuore, tenta ferir Ruggero sotto le rene. Ma il giovane s'accorse dell'errore in che potea cader per differire di far quell'empio saracin morire. E due e tre volte nell'orribil fronte, alzando più calzarsi possa il braccio, il ferro del pugnale a Rodomonte tutto nascose e si levò d'impaccio. Alle squallide ripe d'Acheronte, sciolta dal corpo più freddo che giaccio, bestemmiando fuggì l'alma sdegnosa, che fu sì altiera al mondo e sì orgogliosa. Abbiamo trasmesso la 25esima puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.